in primo piano. Milano chiama Roma, Betta Fiorito, ci sei? Buongiorno Irene, buongiorno a tutti i radioascoltatori, sono molti temi sui giornali questa mattina. Irene, come hai già accennato tu, si parla di Expo ma si parla anche dei migranti. Allora ti riederò la linea tra un po'. E noi ti seguiamo, chi è il tuo ospite oggi? Allora, il mio ospite è Nicola Barone, giornalista del Sole 24 Ore, quindi la testata di Radio 24. Buongiorno Nicola. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno Nicola, vi seguiamo fino in fondo, a più tardi. Che come giornalista di carta stampata l'abbiamo fatto alzare alle 7:15. Allora, che visto che si va a letto molto tardi quando si lavora nei giornali. Allora, Merkel all'Expo, bene l'Italia, questo è il titolo del Corriere della Sera, sintonia con Renzi sui migranti, due leader, la UE non sia solo rigore. Europa e USA con l'Italia, il titolo della Stampa, uniti contro l'ISIS in Libia, l'arcivescovo di Monreale, così la Chiesa accoglie i migranti. La Repubblica, migranti, l'aiuto di Merkel a Renzi, emergenza UE, l'incontro tra il Premier e la Cancelliera all'Expo, Bagnasco, cosa fa l'ONU per questa tragedia? Libero, i vescovi se la prendono anche con gli alpini. Dopo la Lega, i militari, proibita, ammessa la loro preghiera che recita: rendi forti le nostre armi contro chi minaccia la patria e la civiltà cristiana. Il giornale, Alfano usa i profughi come un'arma, il ministro raddoppia gli immigrati nelle regioni nemiche, Lombardia, Veneto e Liguria. Il Messaggero, crescita, spiragli, Renzi, Merkel, incontro fra Premier e Cancelliera all'Expo su flessibilità e investimenti, Berlino più morbida. Dal piano Juncker, 2 miliardi all'Italia, questo è il titolo del nostro giornale Il Sole 24 Ore. Ricordiamo anche l'estate con il tuo amico Sole, mercati, titoli di Stato, il ribasso dei tassi di BOT e BTP e poi investimenti e obbligazioni tra governativi e societari. Questo è il titolo ovviamente del Sole 24 Ore. Poi altri titoli di altri giornali ovviamente su altri argomenti. Il Fatto Quotidiano si concentra sugli alloggi d'oro a capo elettricista, usciere e autisti del Quirinale. Per far funzionare il palazzo servono dirigenti sempre presenti e vicini di casa. E i viaggi della morte, appello per la Libia, l'Avvenire, il Quotidiano dei Vescovi. Italia d'oltremare è un titolo invece di... del manifesto, con un'operazione da 100 milioni di euro l'armatore proprietario di Mobi compra Tirrenia e diventa monopolista del trasporto marittimo della Sardegna, denuncia il manifesto. Vogliono fermare l'Italia, ancora il titolo dell'Unità sulla protesta di Salvini. Ah, Nicola, abbiamo visto, insomma, c'è ancora moltissima discussione sul tema dell'immigrazione, ma c'è un'apertura della Merkel. Questa è un po' la novità di ieri, no? Sì, sembra essere questa una delle novità venute fuori dalla visita, comunque privata, della cancelliera tedesca all'Expo. I due premier, Renzi e la cancelliera, hanno discusso riservatamente anche del tema dell'immigrazione. Per la prima volta sembra essere venuta dalla cancelliera tedesca un'apertura a che il problema dell'immigrazione diventi una questione da affrontare collegialmente da tutti i paesi europei. Non era questo l'unico tema riservatamente discusso dai due. Quello che sappiamo, da quanto risulta dalle ricostruzioni, si è anche parlato di quanto l'Italia potrà ottenere in termini di flessibilità per metter mano alla prossima manovra di stabilità. Uno dei temi che alla ripresa sicuramente il Premier dovrà guardare con grandissima attenzione. Il punto è precisamente ottenere quel margine, le cifre ballano tra i 4 e gli 8 miliardi che consentono all'Italia di strutturare una manovra in grado di garantire una maggiore ripresa e soprattutto di operare su quelle cose che pesano parecchio, quelle clausole di salvaguardia per quanto riguarda l'aumento dell'IVA e delle accise, gli aumenti, una serie anche di tagli legati alla TASI e a una serie di misure per il controllo delle tasse a cui il Premier guardava con grandissima attenzione. Allora, infatti, proprio su questi temi proprio economici segnalo vari articoli. Alessandro Barbera su La Stampa: il governo chiederà a Bruxelles uno sconto da 5 miliardi. Il piano è recuperare risorse grazie alla clausola degli investimenti. La lista delle promesse lunghe, Palazzo Chigi dovrà scegliere. Questo è il titolo della Stampa. Renzi chiede alla Merkel il permesso di tagliare le tasse, un titolo ovviamente polemico, quello di Libero. Incontro all'Expo: il Premier cerca di ottenere il via libera dalla cancelliera per la manovra da 25 miliardi, ma Angela preferisce mangiare i gamberoni. Abbiamo visto che ha pure bevuto il Ferrari Brut e anche mangiato lo Speck, no? Crescita spiragli Roma-Berlino su più flessibilità e investimenti è il titolo invece del Messaggero. Il capo dell'esecutivo ancora in pressing: l'agenda europea adesso va modificata. Domani il Bundestag vota sulla Grecia. Infatti. L'ospite più preoccupata per i migranti. E poi manovra la trattativa di un articolo di Andrea Bassi, sempre sul Messaggero, dice: il governo punta a una doppia clausola, strada stretta per usare il deficit, riforme e investimenti per ottenere più margini nei conti da Bruxelles, possibili spazi fino a 12 miliardi. L'impegno di Roma a mantenere comunque l'indebitamento sotto la soglia del 3% del PIL. All'Expo, scrive invece il Corriere della Sera, sintonia Merkel-Renzi sul tavolo UE e immigrazione. E poi c'è un'intervista a Josef Janning, analista senior del Consiglio europeo per la politica internazionale, e dice: Berlino si fida, spazio per un asse a tre con Parigi. In Germania c'è aria nuova sull'idea di spingere nell'eurozona. Il piano di riforme di Roma è ritenuto serio finché proseguirà, così non mancherà l'appoggio. E dice Janning: nell'idea tedesca la Grecia è distante anni luce dall'Italia o dalla Spagna. Non è ancora chiara come Alexis Tsipras intenda affrontare alle radici il problema del sistema, prima tra tutti il clientelismo. Ecco, noi tendiamo invece sempre a pensare che la Germania fa di tutto un erba un fascio, cioè di tutti i paesi a sud, no? Che si affacciano sul Mediterraneo, no? Come se fossero tutti uguali. Invece Janning dice che non è così. È un po' così, è la tua opinione? Sì, effettivamente così sembra esserci comunque uno scatto nel come la Germania intende affrontare la questione dell'immigrazione. Non dobbiamo comunque dimenticare che per la cancelliera si tratta di una fase molto delicata. Viene in Italia in anticipo rispetto a quanto previsto, perché domani è atteso un voto del Parlamento tedesco molto sensibile sul terzo salvataggio alla Grecia, e ha rogne non da poco da affrontare. La questione riguarda soprattutto quanto la maggioranza che la sostiene rimarrà compatta al momento del voto. Nella passata occasione le defezioni sono state significative, c'è chi parla addirittura che potrebbero essere 100 in questo caso. Quindi questo spiega molto bene la nuova linea in qualche modo della Germania, che ha voluto evitare, come ha anche detto Falco, il ministro delle finanze Schäuble, una Germania che avrebbe spaventato tutto il mondo, i mercati, per la sua tendenza egemonica. Ebbene, questa nuova fase si sta aprendo ed è molto probabile che riguardi anche il fronte dell'immigrazione. Allora, segnalo anche Renzi in manovra, ma la via è stretta, un articolo sul Foglio: non solo Palazzo Chigi, guida essenziale per capire perché l'Italia avanza ma con PIL frenato. Il PIL del secondo trimestre è cresciuto, come d'attese di governo ed economisti, più 0,2%, che si traduce in previsione per fine anno in un più 0,7%, ma non c'è una ripartenza vera, ha sentenziato il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi. Non si vede quello scatto in avanti che faccia sperare in una vera inversione previsione di marcia che porti magari a un rassicurante più 1%. Perché? Cosa frena la crescita? Molta Fiat, poca Confindustria, scrive il Foglio, una ripresa guidata dai consumi che ci danno qualche decimo di PIL, però in buona parte legato ai SUV e all'auto in generale, ossia alla Fiat. È di fatto un PIL targato Marchionne e non Confindustria. Forse per questo, scrive malignamente il Foglio, Squinzi non è molto contento. Export zavorra a sorpresa, da qualche tempo l'export è debolissimo in tutti i paesi occidentali e dopo quello che abbiamo visto con la Cina sarà anche peggio nella seconda parte dell'anno. Meno tasse seriamente, molti lamentano una mancanza di investimenti e abbiamo rispetto all'Europa le tasse più alte. Ricambio poi generazionale, la forte imprenditoria italiana è invecchiata e le generazioni seguenti non hanno la stessa voglia di fare dei loro genitori. Questa è l'analisi del Foglio, ma la domanda che ci facciamo tutti, l'ho detto anche ieri, che praticamente finalmente si comincia a parlare, petrolio giù ma la benzina cala poco. Ieri il costo del barile è sceso sotto la soglia dei $42, in un anno il greggio ha più che dimezzato il suo valore, ma sul prezzo alla pompa pesano le accise usate dal governo come un bancomat. Per ogni litro più di un euro va allo Stato. Ecco Nicola, poi oltretutto ci sarà forse l'apertura anche del petrolio iraniano dopo l'accordo con gli Stati Uniti. È possibile che non si riesca a far calare il prezzo della benzina? È uno dei problemi che è stato sempre posto all'attenzione. Il livello della fiscalità su beni primari molto molto alto nel nostro paese, quindi anche per quanto riguarda tutto il discorso che hai fatto sulla possibilità di crescita del nostro paese, il presidente di Confindustria ha più volte rimarcato la necessità che buona parte delle prossime risorse da mettere in stabilità siano destinate al costo del lavoro, perché è esattamente questo il punto, rendere stabilmente migliori le condizioni per l'occupazione. Il petrolio rappresenta un prerequisito, questo livello basso del petrolio per l'impresa e per l'economia in generale rappresenta un prerequisito molto utile per il suo sviluppo, quindi in linea teorica la ripresa che ancora non vediamo è il frutto anche di una serie di riforme che sono state avviate ma che per dare i frutti necessitano naturalmente di tempi lunghi e spesso queste riforme sono anche costose all'inizio. Abbiamo una pubblica amministrazione ancora molto complicata e inefficiente. Questi cambiamenti che sono stati comunque impostati dal governo potranno dare dei frutti, ma sarebbe anche piuttosto velleitario immaginare che si riflettano immediatamente in termini di PIL in aumenti. E insomma poi vabbè, sappiamo che il Foglio è sicuramente critico, no? Nei confronti anche di tutti, di Confindustria, del governo, insomma è chiaro che è una voce contro. Allora, emergenza migranti, la Merkel volta pagina, si muove tutta la UE, quello che dicevamo prima, no? Una sintonia che trova riscontro immediato, scrive Repubblica, sul problema dell'immigrazione di cui i due leader hanno discusso a quattro occhi durante la cena. Del resto è stata una nave militare tedesca a salvare 103 migranti la notte scorsa pattugliando nel canale di Sicilia. E la Merkel, nella sua intervista televisiva di domenica, per la prima volta ha pubblicamente ammesso che c'è bisogno di una politica comune europea in materia di asilo, una dichiarazione che fa il paio con la telefonata resonata da Jean-Claude Juncker di sostegno alla Commissione europea per il piano di quote approvato all'ultimo Consiglio UE. A Palazzo Chigi si esulta per questa svolta tedesca e la si considera come uno dei risultati del pressing italiano. Ti sembra che ci sia stato un pressing italiano sicuro, ma che questo sia una svolta per il pressing o purtroppo perché ci si è reso conto che continuano ad arrivare migranti e che non si può scaricare tutto sui paesi nel Mediterraneo, cioè in questo caso l'Italia e adesso recentemente anche la Grecia? Dunque, al di là dell'episodio specifico, penso si possa essere tutti d'accordo che il peso maggiore della gestione di questo fenomeno, visto che l'Italia è cerniera sul Mediterraneo, è sulle spalle del nostro paese, e il pressing italiano sicuramente ha portato dei frutti, porta dei frutti anche tutta l'azione che l'Italia insieme ad altri partner europei internazionali sta portando avanti per quanto riguarda la Libia. Ieri sono cominciati a trapelare sui giornali alcuni dei punti che potrebbero riguardare la fase 2 che interessa quel paese, qualora i negoziati consentiranno lo stabilirsi di un governo che superi la rottura in tante tribù di quel paese. Sicuramente l'Italia è al centro di un nuovo protagonismo dal punto di vista di questi negoziati di trattative e la Libia in questo diventa strategica non solo perché si potrebbero aprire gli interessi economici legati alla ripresa delle attività produttive in quel paese, ma anche perché la Libia è uno di quei canali principali attraverso i quali l'immigrazione, quella meno controllata, arriva sulle nostre coste. In generale questa nuova fase è possibile sia stata anche consacrata in qualche modo all'interno della visita informale della cancelliera tedesca ieri a Expo. Allora noi diamo la linea intanto alla regia. In primo piano. E sono già arrivati degli sms al 349-238-6666. Un radioascoltatore mi scrive che il Foglio non è un foglio contro, ma è un quotidiano falso. E poi un altro radioascoltatore mi dice quanti immigrati, quanti profughi invita la signora che conduce il telegiornale a casa sua. No, è chiaro che rispondo anche al radioascoltatore, qui si sta parlando di un problema appunto molto grosso e quindi bisogna capire come riuscire a risolverlo. Il fatto che l'Europa si interessi per noi italiani è un dato positivo. La serrata di Salvini bocciata da Forza Italia e Movimento 5 Stelle, scrive Nicola Barone che è in linea con noi sul Sole 24 Ore, non guadagna spazio tra i partiti maggiori dell'opposizione la serrata di Matteo Salvini pensata per questo autunno. Ricordiamo, il leader della Lega Matteo Salvini ha proclamato 3 giorni di sciopero dallo Stato, quindi l'astensione a comprare le sigarette oppure sì, ai videogiochi, che sono tutte fonti di reddito per lo Stato. Ecco, qual è stata la tua impressione, Nicola? Perché poi alla fine Salvini non è riuscito a convincere poi i suoi alleati, Forza Italia, non tanto il Movimento 5 Stelle, ma quanto Forza Italia. Berlusconi è sembrato freddo. Sì, decisamente freddo a sentire alcune delle voci che per suo conto si sono espresse ieri. Il punto al quale partire è cominciare innanzitutto a capire di che cosa si tratta e che cosa abbia in mente Salvini. Lui ha in mente, l'ha chiamata, una disobbedienza pacifica contro un governo abusivo. In sostanza lui immagina una serie, non vuol chiamarla sciopero generale, la chiama serrata, ma chiama raccolta tutte le principali categorie produttive, perché seguendo l'esempio storico delle 5 giornate di Milano, le persone si astengano da alcuni consumi, facciano dei presidi davanti all'Agenzia delle Entrate, davanti alle banche, alle prefetture, qualcosa che è ancora molto indefinito. Lui va addirittura ha evocato in un certo passaggio la possibilità che non vengano pagate delle tasse, che questa cosa era allo studio con gli amministratori leghisti. Detto questo, la cosa è passa al centrodestra, ai partiti maggiori del centrodestra, come un salto in avanti non previsto, non sufficientemente programmato, non elaborato. Questo almeno sembrerebbe essere stata la reazione di Silvio Berlusconi. Per lui parla Giovanni Toti, il governatore della Liguria, che ha detto che sostanzialmente l'unica strada possibile per il rilancio del centrodestra è quella di organizzare una piattaforma politica nuova in modo organico, dialogando, senza salti in avanti. L'ha un po' liquidata come una legittima iniziativa di partito, quasi a prenderne le distanze. Renato Brunetta, che non sempre ha avuto posizioni simmetriche rispetto a Toti, è sulla stessa linea, anche lui dice sostanzialmente ma quale bloccare l'Italia? L'Italia è già un paese sostanzialmente fermo, dobbiamo pensare a ben altro. Questa mattina in un'intervista avevo visto la coordinatrice di Forza Italia in Lombardia, Marcella Gelmini, essere un po' più possibilista sulla possibilità di unirsi alla protesta, anche se lo stato maggiore del partito è assolutamente contrario. È chiaro che qui cosa c'è in gioco? La leadership dell'iniziativa politica all'interno del centrodestra. È chiaro che Salvini fa il suo gioco e cerca di parlare agli umori profondi, più negativi del paese, raccogliendo una protesta che comunque nel paese continua a serpeggiare. Il problema di Forza Italia, quindi del partito a cui spetta storicamente il primato in quell'area, il problema di Forza Italia è invece raccogliere un voto più largo, ma soprattutto che peschi più nel centro dell'area politica. È chiaro che Salvini rompe un po' le uova nel paniere con delle iniziative non troppo organizzate, non troppo condivise dallo stato maggiore intorno a Berlusconi. La novità è che anche l'appello che era stato fatto da Salvini al Movimento 5 Stelle è caduto nel vuoto. Nessuno dei membri del direttorio ha risposto, né Grillo né altri, all'appello di Salvini, e sostanzialmente le poche risposte che ci sono state improntate al gioco. Hanno ironizzato sul fatto che ai bambini non si può dare la colpa se si crede a Babbo Natale, se poi Salvini fa battute del genere. Ecco, quindi ha trovato pochissime sponde, se non una parziale apertura in Fratelli d'Italia, che però dice noi ci siamo a condizione che sia un modo efficace per buttare giù il governo e buttare giù Renzi. Ecco, ci è parsa un'opposizione divisa, ma siccome ci accusa qualche radioascoltatore di che ci sono commenti agiografici di buona parte della stampa italiana, scrive Stefano, sull'operato del governo Renzi che voi avallate, io voglio subito invece cominciare a parlare anche di un altro fronte, caro Nicola, che noi giornalisti politici sappiamo benissimo. Castagnetti sull'Unità dice: chi lascia il PD deve dirci dove va e con chi. Snaturamento, cioè un'aggressione costante al nostro partito delle destre politiche, mass mediatiche ed economiche, che ne dimostra l'alterità. Sulle riforme non si può liquidare con leggerezza l'intervento di Napolitano. Ecco, quindi il tema, i numeri ci sono o non ci sono al Senato? Questa è la domanda che io faccio a tutti voi, colleghi, perché tanto... Cominciamo a difenderci dall'accusa. Non si difende l'azione del governo Renzi, si dà, come dire, un beneficio iniziale nell'attesa che delle cose anche più sostanziose possano venire fuori. Lui vanta le cose che ha fatto, l'ha fatto in segreteria, in tutte le sedi di partito. L'annuncite di Renzi, no? La cosiddetta... Tuttavia, per un paese che cronicamente ha conosciuto una debolezza economica negli ultimi anni a causa della crisi, ma anche per ragioni strutturali, è davvero poco immaginabile, vista da una posizione renziana o non, una progressione positiva troppo bruciante. Come abbiamo detto, delle riforme, questo economisti di qualunque orientamento lo sostengono, per fare le riforme all'inizio hanno dei costi che alcune categorie all'inizio debbono sopportare e che per dare degli effetti hanno bisogno di tempi lunghi, quindi un riflesso economico concreto nella vita delle persone lo si otterrà, se queste misure risulteranno effettivamente efficaci, lo avremo in un tempo non strettissimo. Torno al capitolo delle riforme, i voti ci sono o no? I voti, secondo i calcoli anche riservati che circolano, sono sul filo. Quindi è una partita drammaticamente aperta per Renzi, il quale ha comunque sinora mantenuto una linea di distanza rispetto a quella che ha definito una telenovela agostana. pensa che tutto sommato abbiamo davanti del tempo sufficiente per trovare un'intesa, in campo c'è già una proposta di mediazione, è chiaro che sul piano dei numeri il problema si pone. Il problema è rappresentato appunto da questi 28 senatori cosiddetti dissidenti della sinistra del partito, i quali hanno posto come essenziale la questione di rendere il nuovo Senato, quello che si sta riscrivendo, eletto direttamente dai cittadini. Ne viene fatta una questione soprattutto di democrazia, di sottrazione di un potere troppo grande, secondo anche quello che arriverebbe dalla legge elettorale, troppo grande nelle mani del Premier. Il punto fondamentale è come verranno spese queste 2 settimane? Probabilmente ancora tra 1000 polemiche. È chiaro che Renzi guarderà prioritariamente per cercare un'intesa la minoranza del suo partito, non ha alcun interesse a guardare al di fuori della maggioranza di governo per non complicarsi ulteriormente la vita. Abbiamo visto quanto sarà difficile la partita della manovra di bilancio che è alle viste. Per cui dovrà in qualche modo cercare, anche se non è nel suo carattere, nel suo temperamento, una mediazione con la minoranza. Minoranza che, è bene dirlo, ha tutte le caratteristiche ormai di un partito nel partito. Non sbaglia chi legge in queste posizioni una linea che potrebbe nuocere nell'insieme al PD, al PD ovviamente targato Renzi, ma che nell'insieme è pur sempre la vecchia ditta di bersaniana memoria. Quindi la mediazione la si cercherà, il tempo c'è davanti, la mediazione la si cercherà probabilmente su questa proposta che è stata elaborata da un gruppo variegato, dal ministro Martina al capogruppo al Senato Zanda, che prevede un'elezione in diretta con questo listino dal quale poi i cittadini potrebbero scegliere i propri rappresentanti per il Senato. Se dovesse fallire, e sottolineo se, la mediazione con la minoranza, a quel punto Renzi potrebbe guardare con interesse anche a Forza Italia. Forza Italia ha tutto l'interesse a rientrare in una partita politica significativa dopo la rottura del patto del Nazareno, e quindi guarda con interesse a tutti i movimenti. Molti uomini, Toti stesso, ma tanti altri, hanno parlato della possibilità di rientrare in questo gioco delle riforme ove si pongano le condizioni. Le condizioni che hanno posto sono essenzialmente 2, e chiudo: cambiamenti all'italicum, e anche qui in questo caso la cosa che chiede la minoranza del partito, modifiche per rendere il Senato elettivo. È chiaro che su questo finora Renzi non vuol sentirne. Sulla prima cosa, per Renzi la legge elettorale è un dato acquisito, vanta anche il fatto di esserci riuscito ad arrivare al traguardo, per cui lo snodo fondamentale è ancora bloccato. Il talicum non si tocca, per cui l'unica cosa presumibile è che Renzi farà passare queste settimane, affronterà poi il momento opportuno e concretamente le proposte, cercando una mediazione. Il piano Mattarella per scortare la legislatura è sempre sul foglio, le consultazioni segrete avviate dal capo dello Stato con le opposizioni sulla riforma costituzionale nascondono una preoccupazione. I margini per il governo ci sono ancora, ma se le cose non dovessero funzionare, che si fa? L'incontro più delicato è previsto per settembre con il presidente del Senato Grasso, la prima vera partita del capo dello Stato tra triangolazioni, intese larghe e frasi da spiegare. Non consentirò acrobazie. Questo è Mattarella. Allora, noi diamo la linea alla regia per ritrovarci subito dopo con Nicola Barone. In primo piano. E andiamo sempre a parlare di immigrazione, allarme e invasione sul Libero. Renzi manda al nord tutti gli immigrati per ritorsione politica, lo dice il governatore lombardo Roberto Maroni. Il governo passa sopra le regioni e non rispetta il patto sulla redistribuzione firmato solo un anno fa. Guerra sia, pagheremo la difesa ai sindaci che resistono all'invasione. Poi Alfano usa i profughi come un'arma, quindi sia Libero che Il Giornale sono sulla stessa visione. Sono le regioni del nord, scrive Alessandro Sallusti nel suo editoriale, a sobbarcarsi il maggior numero degli immigrati che quotidianamente sbarcano sulle coste italiane. Lo rivelano gli ultimi dati di un bollettino che assomiglia sempre più a quelli di una guerra: morti dispersi in mare, fuggiaschi in terra, smistati in giro per il paese. Un'emergenza umanitaria che sta diventando anche politica. Partiti, vescovi e governatori e sindaci, ognuno dice la sua, e i toni salgono con ripercussioni anche fuori dal recinto dell'emergenza. C'è, per esempio, il sospetto che il ministro degli interni Alfano stia usando le quote per punire le regioni politicamente ostili a lui e al suo governo, Lombardia e Veneto in primis, e agevolare quelle amiche del sud. Così come è probabile che Matteo Salvini alzi giorno dopo giorno l'asticella della polemica per mantenere il palcoscenico mediatico, incurante dei contraccolpi che parole dure e sferzanti nei confronti dei vescovi e della Chiesa hanno e avranno con gli alleati di Forza Italia. Qui, ecco, Sallusti poi sottolinea quello che è anche una divisione politica. I vescovi se la prendono anche con gli alpini. Ecco, questo vorrei dirlo, perché dopo la Lega i militari proibiti ammessa la loro preghiera che recita: rendi forti le nostre armi contro chi minaccia la patria e la civiltà cristiana. Si temeva che gli immigrati si offendessero, questo sta è il titolo di Libero. Ecco, Nicola, è il caso di cambiare questo verso, perché anche la preghiera degli alpini sta di, però se la preghiera chiaramente la fanno gli alpini, la fanno probabilmente magari in un ambito cattolico, quindi che insomma è un po' un politically incorrect. Come sempre occasioni di questo genere, problemi di questo genere talmente grossi da effettivamente spaventare chiunque, si prestano alla guerra politica tra fazioni e all'interno dei partiti. Si può dire che probabilmente non c'è sufficiente consapevolezza di quello che accade con un continente scosso da guerre e da povertà. Il punto fondamentale è che ci sono masse umane che premono alle porte di una parte del mondo, quale l'Europa, più ricca. Queste spinte non sono, non è possibile fermarle con i cannoni o con azioni violente. È necessario trovare delle politiche adeguate, e un buon segnale arriva ovviamente da questa, almeno iniziale, possibilità che la Germania e l'Europa nel suo insieme affrontino la questione in modo diverso, in modo più collegiale. Ancora ieri il cardinale Bagnasco, il presidente della CEI, ha sottolineato quanto questa tragedia non riguardi le coste italiane e le isole, le parti più accostate all'Africa e a tutta quella parte del mondo. È una questione generale, e Bagnasco ha chiamato direttamente in causa l'ONU dicendo: c'è sufficiente consapevolezza rispetto ai problemi che stiamo affrontando? Lui si trovava lì ad accogliere una cinquantina di persone che saranno ospitate in un seminario arcivescovile, eppure sembra tutto sommato non esserci coscienza anche che le risorse italiane sono da questo punto di vista limitate. Un punto ovviamente è la questione politica che ne viene fuori. Abbiamo assistito alle posizioni di Monsignor Galantino, molto scettiche rispetto all'azione del governo, poi in parte corrette, e da qui è nato anche un vespaio fortissimo con di nuovo Matteo Salvini durissimo. Ma anche qui sono posizioni molto varie, perché all'interno del centrodestra, la parte più sensibile rispetto al problema dell'immigrazione, sono emerse posizioni differenziate. Il capogruppo del Senato Romani ha per esempio detto: no, le parole di Salvini rispetto a quello che succede, rispetto alla posizione della Chiesa e ai migranti, sono eccessive, è un problema generale, non possiamo non farci carico di queste persone, di questi salvataggi, anche perché la nostra Costituzione è imporci determinati comportamenti. Quindi la cosa, tutto sommato, posso dirlo personalmente, un po' triste è che questo si presti per campagne vere e proprie politiche, mentre invece l'unica possibilità invece è una gestione oculata e attenta con politiche adeguate del fenomeno. Non ci sono altre strade, perché queste masse non smetteranno di premere alle nostre porte, e quindi in altri paesi e in altre epoche storiche fenomeni di questo tipo hanno consentito magari anche il miglioramento delle condizioni dei paesi stessi che ospitavano. Laddove c'è sufficiente capacità di gestire questi fenomeni, questo può rappresentare anche una possibilità di crescita. D'altra parte, anche come lo dimostrano anche i migranti, gli immigrati regolari nel nostro paese rappresentano e hanno rappresentato una risorsa importante per la nostra economia, la nostra vita sociale e per la nostra cultura, che se ne dica. Allora, dopo la Lega e il governo, la Chiesa attacca l'ONU, migranti alla deriva, e questo invece è il titolo del manifesto, perché la preoccupazione poi a sinistra invece è che poi la Chiesa si ingerisca troppo negli affari di Stato, magari come le unioni civili, no? Allora, nuove norme per il lavoro e minori alle famiglie italiane, così si supera l'emergenza. Questa è la ricetta dell'arcivescovo di Monreale Michele Pennisi, proprio perché molti radioascoltatori ci scrivono, dicono: ma allora che dobbiamo fare? Vi ospitate gli immigrati a casa vostra? Segretario CEI per l'educazione cattolica e membro del Dicastero Vaticano Giustizia e Pace. Lui dice che lancia un piano in tre punti, questa è l'intervista che fa Giacomo Galeazzi sulla Stampa: estendere la copertura assicurativa dei lavoratori socialmente utili per consentire ai rifugiati di poter lavorare, dare la possibilità alle famiglie italiane di prendere in affido moltissimi minori non accompagnati che sbarcano ogni giorno, istruzione e sanità. Per garantire l'integrazione per la Chiesa bisogna dare ai profughi, soprattutto minori, l'assistenza sanitaria e l'inserimento scolastico e sociale, non sfruttamento di manodopera ma impiego e a favore della collettività, così si integrano i migranti e si vince la xenofobia, dice l'arcivescovo di Monreale. Ci sono famiglie pronte ad accogliere i minori abbandonati e offrire loro sanità e scuola, la politica aiuti con nuove leggi. Ecco, quindi lui dà una ricetta, no? Anche una via alla politica. Beh, è difficile dire se questa possa essere la soluzione adeguata per il problema. Tuttavia tocca un po' prendere distanze dalle osservazioni dei nostri ascoltatori, nel senso che laicamente non si può non concordare con quello che ha sostenuto il segretario generale della CEI Galantino qualche giorno fa, cioè separare tutto sommato anche la percezione dei fenomeni dai dati fattuali. Noi non abbiamo, nonostante il Mediterraneo conosca morti e una sciagura di dimensioni enormi, noi non abbiamo, come dire, numeri sconvolgenti dal punto rispetto agli anni scorsi legati al fenomeno dei migranti. I numeri sono tutto sommato sovrapponibili, e se il confronto viene fatto con la quota, con lo stesso fenomeno registrato in Ungheria, per esempio, in Germania, l'osservazione dei dati diretta dice che lì il fenomeno è straordinariamente più ampio nei numeri rispetto al nostro. Quindi bisogna ragionare con nervi molto saldi, non dire prendete voi a casa vostra le persone, perché il punto non è questo. Il punto è comunque dover ragionare su una situazione che di fatto esiste e continuerà ad esistere. Politiche è l'unica cosa necessaria per poter affrontare la cosa. Il governo, per dire, si sta attivando. È chiaro, la cosa che dicevo, il riferimento fatto prima, il piano per la Libia, che prevede, che è uno dei canali preferenziali per questi flussi migratori, il piano del governo che prevede, mi pare di ricordare, soprattutto dei militari dell'ONU a presidiare delle zone nodali, una serie di sostegno al governo, una serie di azioni fondamentali nel qualora appunto venga stabilito un governo di superamento delle guerre tribali che sono in corso in quel paese. L'azione è possibile solo in questo modo. Allora, 2 minuti proprio per poi ripassare la linea a Irene. Fondazioni culturali, più soldi se c'è lo zampino della politica, perché il Gramsci e lo Sturzo prendono più del doppio dell'Accademia della Crusca, questo sul Fatto Quotidiano. Una cosa molto divertente sul Giornale, apologia filosofica dei nani da giardino. Pisolo e soci saranno kitsch, ma esprimono in modo spontaneo il perduto legame con un arcaico universo di simboli irrazionali. Lavorare ad Amazon è un inferno, il New York Times, turni di 16 ore, mail notturni, crisi di pianto e controlli in bagno. Questo sulla Stampa. Troppo testosterone, sei fuori. Le quote rosa fanno irruzione nelle classifiche letterarie inglesi. Questo sul Fatto Quotidiano. L'ultimo saluto poi, muore a 66 anni, lo vogliamo ricordare, Donato Bruno, berlusconiano, sì, stimato a sinistra, è stato presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Io lo rivoglio ricordare che era un politico, no, ad altri tempi. Gli potevi fare qualsiasi domanda scomodissima, ma lui ti rispondeva sempre pacatamente con un sorriso. Così, no, Nicola? Sì, l'hai scritto ieri, effettivamente in tempi di conflitto dilagante è raro trovare unità, appunto, di sentire nei politici intorno alla sua figura. Effettivamente l'hai scritto tu ieri, ci si potevano fare le domande peggiori e la risposta era sempre il garbo. Ed di Forza Italia, ricordiamo che era di Forza Italia, era sempre garbato. Ora io ti devo tagliare perché c'è Irene da Milano. Irene. Grazie, abbiamo seguito con molto interesse la vostra rassegna stampa, grazie Betta, e torneremo su alcuni dei temi affrontati dai giornali inevitabilmente, perché di immigrazione e di sbarchi parleremo e di quelle persone che sì, se li sono portati a casa i profughi, a partire dal sindaco di Comerio che ospita 6 migranti a casa sua e fa infuriare la Lega, per andare soprattutto nelle famiglie, nelle persone di cui a casa, delle persone di cui nessuno parla, e hanno imbandito una tavola per ospitare i profughi. Chiaro, questa non è la soluzione a un problema globale, però si parte da lì per capire questa Italia che sembra così un po' schizofrenica, un po' a due velocità: da una parte grande dibattito politico e dall'altra invece qualcuno che nel silenzio fa delle cose. Parleremo anche con loro, il tutto dalle 8:30 all'800 24 00 24, questo è il numero di telefono. Noi ora diamo la linea al GR e poi torniamo con Spunti di Vista.